L'insegnamento del regno dei cieli. Parte 1. File audio 3. Capitolo Le cinque fasi del liberatore. Paragrafo 4. Io sono il primo e l'ultimo. Guardiamo ora il significato più profondo delle lettere ebraiche. Nei nomi del Merkava, portatore dei cinque Kelim nelle linee di mezzo. È esattamente lo stesso in ogni essere umano, sia nell'aspetto generale, sia in quello particolare. In noi Keter è sempre la forza di Yeshua, sempre la forza del regno dei cieli. In noi Moshe è Da'at, la forza della Torah dischiusa. Ogni essere umano ha la forza di Moshe. Tiferet è sempre la forza dello Zohar, la Torah segreta. E fu Shimon Bar Yochai, a portarla giù. Vedi la figura prima. E tramite Yitzhak Ari discese la forza dell'albero della vita, vale a dire la luce arrivò in Yesod. E alla fine, e questo accadrà molto presto, viene la forza del Mashiach, il Redentore, nella sua seconda apparizione, ma ora sarà arricchito da tutti i quattro stadi precedenti, in tutta la gloria di Havaya. Osserva i nomi della prima figura. Yeshua è il nome di Keter. Yeshua ha valore numerico 390. Yud è 10, Shin è 300, Vav è 6, Ain è 70, in totale 386. Aggiungi le quattro lettere, sarà 390. Perché aggiungiamo le quattro lettere? In Keter sommiamo sia il valore numerico sia il valore di lettere. Le quattro lettere del nome Yud Hei, Vav Hei, quindi 386 più queste quattro lettere fa 390. C'è una regola spirituale. Questa è la forza di Yeshua. Puoi vederlo come una forza che abbia 390 unità, 390 unità della luce. Il passo successivo è Da'at. Questo è il nome di Mosè. E quando lo leggi, non pensare alla persona che si chiama Mosè. Mai, neppure per un momento, devi pensare alle persone. Devi solo vedere il nome come una forza, la quale è data a qualcuno, qui sulla terra, che si manifesta come Mosè. Non interessarti alla persona di Mosè, ma solo alla forza di Mosè. Lo stesso vale per Michael Portnar. Non interessarti a chi sia, ma solo a quello che discende tramite Michael, con cui la persona Michael non ha niente a che fare. Forse c'è qualcosa nel mio nome, Michael. Michael deriva dall'ebreo Mi-ha-el, chi è come Dio, no chi è Dio, come è stato nel testo, ma correggo, Micael è chi è come Dio. In altre parole, non c'è altro che Dio, come Dio. Io parlo solo del creatore. Ma in me non c'è nulla. Non ho qualità speciali o tratti di carattere che abbiano qualcosa a che fare con il mio insegnamento e tramandamento della Kabbalah. Osserva attentamente il nome Mosè. Osserva da vicino e vedi il nome di Mosè. C'è molto nascosto dentro i nomi e quando guardi attentamente molto ti sarà dato. Non c'è nulla nell'inferiore che non esiste nel superiore. Quello che esiste da Mosè a Mashiach deve essere inevitabilmente presente in Keter, perché tutto viene da Keter. Sei d'accordo? L'inferiore non può avere quello che il superiore non ha. Il superiore dà all'inferiore. Quello che il superiore non ha, non può passarlo all'inferiore. Perciò nel nome di Yeshua devono essere presenti tutti e quattro gli altri nomi. Yeshua deve manifestarsi in Mosè. Perché senza Yeshua non ci sarebbe Mosè. Senza Yeshua e Mosè non ci sarebbe Shimon Bar Yochai, la forza del Shimon Bar Yochai. Senza Yeshua, Mosè e Shimon non ci sarebbe Yitzhak Luria, Ari. Essendo questi quattro il Mashiach, non potrebbe venire. E senza questi quattro, in un testo c'è un... errata. E senza questi quattro il Mashiach non potrebbe venire. Ora abbiamo le cinque fasi del Redentore e non c'è più nulla. Osserva attentamente le lettere ebree di questi nomi. Osserva il nome Mosè e comparalo con il nome di Yeshua. Quali lettere corrispondono? Entrambi i nomi hanno la lettera Shin. In un certo senso Mosè ricevette Shin da Yeshua. Deve esserci sempre qualcosa nell'inferiore che sia presente nel superiore. In questo caso, Keter. Le lettere Mem e Hei sono di Mosè. Dad stesso. Questo è il nome Ma, che è il nome di Zeiran Pin, la forza di Zeiran Pin, la Torah dischiusa. Questo è quello che Mosè portò da sé perché la Shin la ebbe da Yeshua. Quello che devi fare è rimuovere la lettera Shin dal nome Mosè, perché questa lettera la ricevette da Yeshua. Ora la domanda è: qual è il contributo di Mosè? Le lettere Mem e Hei. Mem è la prima lettera del suo nome, Hei l'ultima lettera. Mem e Hei non sono presenti nel nome di Yeshua. Perché? Certamente lo sono in potenziale, ma il lavoro che fece Mosè fu di approfondire la luce di Keter nel Kli Dat, e fece questo tramite queste due lettere del suo nome, Mem. Hey. Il valore numerico di Mem e Hei è 45. Questo è anche il valore numerico della parola Adamo. Adamo. Adamo. Adamo. Che significa umano nel suo significato terreno. Che cos'è l'essere umano nel suo significato terreno? Quali sono le sue caratteristiche? Un essere umano consiste del maschile e femminile, destra e sinistra. Questo inizia con Mosè, con Dad. In Dad si vede l'inizio dell'esperienza di questi due aspetti, destra e sinistra. Questo non lo abbiamo in Yeshua. Questa è una delle ragioni per cui i cristiani videro e ancora vedono Yeshua come Dio, perché la sua parte superiore è connessa al divino. Ricordati che la parte superiore di Keter si chiama figlio di Dio e la parte inferiore si chiama umano, figlio dell'uomo. Per questo la gente lo vide e ancora lo vede come Dio, perché la sua parte superiore è Dio. Loro lo vedono come Dio e allo stesso tempo come essere umano. E questo non è così strano, perché il Creatore diede ai cristiani qualcosa, vale a dire bontà e misericordia, dal suo interiore. Questo è meraviglioso. Per favore, nota che in ogni religione si nasconde un elemento di verità. Non pensare che le religioni siano come oppio per la gente, per dar loro una sorta di droga leggera spirituale. Per questo così tante persone, nazioni intere, gruppi sono talmente attaccati alla religione. E non importa di che tipo. In conclusione, il contributo di Mosè furono le lettere Mem e Hei. Ora andiamo oltre e esaminiamo il nome di Shimon Bar Yochai. Per noi solo il primo nome è importante. In questo caso Shimon, che ha scritto il sacro Zohar. Da chi ha Shimon la Shin? La Shin viene da Yeshua e da Mosè. La Mem nel suo nome viene da Mosè. La Ayin viene dal nome Yeshua, così come la lettera Vav. Ora puoi vedere che Shimon ha tre lettere di Yeshua, vale a dire più segreti della Torah. Sono rivelati tramite Shimon. Puoi vederlo? Tre lettere di Yeshua sono rivelate nel nome di Shimon Bar Yochai. Qual è il contributo di Shimon? La lettera Nun. Perché Nun? Nun ha il valore numerico 50 e con la scrittura dello Zohar Shimon creò una piccola apertura del cinquantesimo cancello. Il cancello non fu completamente aperto, ma lasciato socchiuso. Questo si riferisce alla lettera Nun. Poi viene il prossimo. La luce discese ulteriormente in Yesod, che è Yitzhak Luria. Ari. Il suo primo nome è Yitzhak. Lo stesso nome Yitzhak del figlio di Abramo. La destinazione di un essere umano è data nel primo nome. Osserviamo il nome Yitzhak. La prima lettera del suo nome è Yud, Chochmah, che viene da Yeshua. Le altre tre lettere sono il suo contributo. Quando osservi le tre lettere rimanenti, Tzachak, leggi una parola con l'essenza, con il significato, di sorriso, come se la risata fosse venuta con lui. Il sorriso implica gioia, piacere, eccetera. Perché? Perché la salvezza è vicina. La salvezza di cui Yeshua parlava. Con l'arrivo di Yitzhak, le quattro luci sono venute nel nostro mondo. La quarta è Vak. Non Gar. Sebbene diciamo che la quarta luce è entrata. Questo è il suo contributo. L'ultima luce arriverà con il Mashiach. Il significato di Mashiach è colui che attrae. Chi è il Mashiach? Naturalmente Yeshua. Il Mashiach o Malchut non può essere qualcun altro perché nel nome Mashiach vi è il nome Yeshua. In Keter, solo in Keter. Ti do un buon consiglio. Ripeti questa lezione quante più volte possibile. Fallo 1.000 volte. Visualizzala. Da nessuna parte nel mondo intero potrai trovare una lezione così importante per lo spirituale. È così importante perché qui hai la saggezza, la salvezza assoluta. Questo è il puzzle spirituale già risolto per l'umanità intera. Non mi interessa. Quante persone possono udirla o leggerla? Una è sufficiente. La rivelazione di questo puzzle doveva divenire pubblica in questo momento. Ed è dato a me farlo. La quinta fase. La fase finale è naturalmente il Mashiach, il Redentore. La prima fase del Redentore è Yeshua. In un certo senso, in ognuna di queste cinque fasi vi è lo stesso Redentore. La fase del Redentore nel Kli Keter è la prima apparizione di Yeshua sulla terra. Che cosa è scritto su di lui? Lo impariamo pure. Lui è una povera anima seduta su un asino. Perché è seduta su un asino? Lo abbiamo già imparato nel Sacro Zohar, nel Ma'amar, del Rabbino Menuna, Rabbino Amenuna Saba. Lui apparve ai due viaggiatori sulla via. Anche lui sedeva su un asino. Bala Sulam lo spiega dicendo che un asino è la condizione di Ibur, del embrione. Quella fu l'Ibur del Redentore, embrione. Del Redentore. quando Yeshua apparì per la prima volta. L'apparizione di Yeshua era così normale che non si poteva notare quanto fosse importante. Anche lui sedeva su un asino. Perché? La sua apparizione era la prima per il genere umano con la luce Nefesh. E, come sappiamo, questa è la luce più bassa. Per questo motivo la prima apparizione fu così spoglia. Dopo Yeshua venne Mosè. Qual è il significato dell'apparizione di Mosè o la venuta della seconda fase del Redentore? Porta un'aggiunta per il cri di Yeshua. Sì, Ruach. In un certo senso arricchisce Yeshua. Con la venuta di Mosè vi è più gloria del nome Hashem per Yeshua. È apparso un paradosso tra Yeshua e Mosè? No, perché sono entrambi lo stesso. Solamente che Mosè è la seconda apparizione del Redentore. Naturalmente Mosè non è il Redentore, è un'aggiunta al Redentore che è Keter. Tutto viene da Keter. Quello che fece Mosè fu attirare la luce più in giù nel nostro mondo, così che la luce Ruach potesse arrivare qui sulla terra. Chi ricevette la luce Ruach? Yeshua o Keter la ricevette? È Keter l'intero significato di tutto? Keter è la corona. Qual è il significato della creazione? La luce deve arrivare completamente in Malchut, alla fine Malchut. Il cli più basso ha bisogno della luce Nefesh. E quando questo accade nel cli di Yeshua, entrerà la luce Yehida. Infine, tutto lo splendore arriva nel cli di Yeshua. Nel nome di Yeshua, quando appare per la seconda volta nel Gmar Tikun. Gmar Tikun è l'ultima correzione. Quando la luce discende completamente fino a Malchut. A quel punto, tutte e cinque le luci saranno al loro posto. Quando questo giorno arriva, Hashem e il suo nome saranno uno. Come dice il profeta. Il significato di Hashem è luce che riempie i kelim. E il suo nome sono gli stessi kelim. È la Malchut. Solo allora vi sarà unità tra luce e kelim. Che significa? Ogni cli riceverà la luce corrispondente. Per esempio, il cli Malchut o il cli di Mashiach avrà la luce Nefesh, il cli Yesod o Yitzhak avrà la luce Ruach, eccetera. Infine, il cli Keter o Yeshua avrà la luce Yehidah, che sarà la seconda apparizione. È anche scritto, e queste sono le parole di Yeshua. Nella seconda apparizione vedrai la manifestazione del Figlio di Dio in tutto il suo splendore nei cieli. Lui lo descrive pure ai suoi studenti. Osserviamo ora le lettere del nome Mashiach. La lettera Mem di Mashiach, o Malchut, viene da Moshe. La lettera Shin viene da Shimon. E lo Yud viene da Yeshua. Questa tre lettere del nome Mashiach sono le prime tre lettere dei nomi precedenti. L'ultima lettera del nome Mashiach, Chet, è la terza lettera del nome Yitzchak. Qui vi è una differenza, perché? Ne parleremo dopo. Il momento puoi vedere molto chiaramente che tutti i nomi sono connessi e che questa è una connessione causale. Un altro indizio che punta allo stesso è che tutto quello che esiste in Keter inevitabilmente esiste nel resto della creazione o nei kelim inferiori. Keter è la fase più alta rispetto ai quattro sferot inferiori. Nel nostro caso i quattro kelim da Da'at a Malchut. Questo è un fatto e vale pure nell'aspetto particolare dei kelim più bassi. La prima lettera di un nome ha in sé tutto quello che si vede nelle altre lettere di quel nome. Si può dire che la prima lettera domina e rappresenta tutto quello che è nel resto delle parole. Non ha importanza. Se il valore numerico non corrisponde, ricordati che la prima lettera ha sempre tutto in se stessa. Ora osserviamo le quattro fasi del nome Yeshua. Abbiamo il nome di Mosè, la prima lettera di Mosè è la lettera Mem con valore numerico 40. Il prossimo nome è Shimon, con la prima lettera Shin che ha valore numerico 300. Poi vediamo Yitzhak, con la prima lettera Yud che è 10. L'ultimo è il Mashiach con prima lettera Mem, 40. Ora sommiamo questi quattro numeri. Moshe con la prima lettera Mem, 40, più Shimon con prima lettera Shin, 300 più Yitzhak con prima lettera Yud, 10 più Mashiach con prima lettera Mem, 40, 390. Il nome di Yeshua ha valore numerico 386, più le quattro lettere uguale 390. Hai già imparato a contare le quattro lettere in Keter? Quindi più 4. Ci sono sempre 5 Kilim, in ognuno dei quali entra la luce. Questi sono i Kilim delle linee di mezzo, e non quelli ai lati della linea di mezzo. Oltre la linea di mezzo, abbiamo il lavoro della destra e della sinistra, ma la luce arriva sempre tramite la linea di mezzo. Noi parliamo di 10 Kilim, ma alla fine l'intero significato nel nostro lavoro è di sviluppare i 5 Kilim nelle linee di mezzo. Naturalmente dobbiamo lavorare nelle destra e nella sinistra. Per esempio, in Chochmah e Binah è tra loro Moshe o Dat, ma la luce entra nei nostri Kilim per via delle linee di mezzo o tramite il nostro Kli Dat. E dobbiamo sviluppare il nostro Kli Keter tramite l'insegnamento del Regno dei Cieli, eccetera. Il luogo di assoluta unità è Keter. Keter non ha né destra né sinistra, solamente misericordia nella sua forma più pura. Ora vedi perché Yeshua era solo misericordia. Non c'è alcuna severità din in Keter. Fu Yeshua che portò con lui misericordia. Qual era ed è il messaggio di Yeshua? Il primo Kli in cui entri è quello di Yeshua. Prima devi venire a Yeshua. Tramite Yeshua puoi venire nel Regno dei Cieli, perché solo nella parte superiore di Yeshua, o Keter, vi è il Padre. Non c'è altro modo di venire al Padre, Yeshua disse. Nessuno può venire al Padre che tramite il suo Figlio. Solo il Figlio sa chi è il Padre. Solo il Figlio conosce suo Padre e nessuno conosce il Figlio eccetto il Padre. Solo il Padre sa chi è suo Figlio e a chi può manifestarsi. A Yeshua, il Figlio. Chiaro? Perché è impossibile venire al Padre? Prima devi venire a Yeshua, perché il Padre si trova nel entro di lui, entro l'altro Keter, vi è il Padre. Yeshua aveva molte obiezioni contro i farisei e i sadducei. Perché? Ascolta attentamente. Certamente i farisei e i sadducei non sono importanti perché non potevano ricevere alcuna luce, solo un piccolo splendore della luce nefesh e ruach. Quando non si accetta il Kli Keter, è impossibile ricevere la luce. Per esempio, guarda la gente ebrea. Mosè insegnò loro la Torah dischiusa. Senza Yeshua non possono ricevere la luce e arrivare alla salvezza. Mosè è il Kli Dat, che significa conoscenza. Mosè portò la conoscenza dell'unico Dio in questo mondo. Per noi conoscenza significa destra e sinistra. Questa è la vera conoscenza. Mosè portò la Torah, portò Dat qui giù all'umanità. Ma lui non poteva portare la Torah in Dat senza passare da Keter. La conseguenza di questo è che chiunque impari la Torah dischiusa deve passare da Keter. Così come fece Mosè. E per questo deve accettare il regno dei cieli. Quando non si accetta questo, si resta senza salvezza proprio come la nazione ebraica ad oggi. Fino ad oggi. La salvezza arriva per via dell'alto Keter e alla luce, e nella luce è incluso il Padre. Naturalmente tutto proviene da Ein Sof. Il Padre è l'inclusione di Ein Sof nel Kli Keter. Puoi vederlo come un rendersi grossolano per il bene della creazione. La creazione è il desiderio di ricevere. Vi è un altro modo per la creazione di resistere a Ein Sof? Per questo Ein Sof porta il nome Havaya nella sua capacità di creatore, come padre della creazione. Questo si riferisce al quattro fasi della luce, dall'alto al basso, ed Ein Sof le toccò tutte così da poter restare in contatto con la creazione per sempre. Chi non accetta l'alto Keter non accetta il Keter entro di lui. C'è qualcun altro modo di ricevere l'alta luce? No. Fu Yeshua a venire con un messaggio di felicità quando disse: il regno dei cieli è vicino. Che significa? Lui voleva dire: accettatemi. Accettate l'alto Keter e a tutti sarà permesso di venire al Padre, mio Padre, perché nessuno può venire al Padre che tramite me. Solo tramite Yeshua si può incontrare il Padre, che è incluso in lui. Ora potete vedere il problema di questa nazione. Che fanno? Accettano Mosè, accettano la Torah dischiusa, le seconde tavole di pietra, ma rifiutano di ricevere Keter. In questo modo non possono passare le serrature e gli ingressi sopra di loro per ascendere a Keter e ricevere la salvezza. Sopra di loro, sopra Mosè, sopra il Kridà, ci sono dei lucchetti. Ma finché il popolo ebreo non accetta Yeshua, non accetta neanche il regno dei cieli. E il risultato è che i lucchetti restano chiusi. Per loro il paradiso è chiuso. Non solo questo, ma sotto di loro vi è Shimon, che è la Sfirat Tiferet nella linea di mezzo, che rappresenta la Torah segreta, la Kabbalah. Loro si rifiutano pure di impararla, sebbene formalmente dichiarino lo Zohar come sacro. Tuttavia, non lo imparano. E chi lo fa? Non lo fa in un modo che aiuti o porti loro salvezza. Perciò loro non possono accettarlo e il peggio è che non hanno alcun interesse a cambiare. Ora si sono rinchiusi due volte. Yeshua ne parlò con loro dicendo: aprite i lucchetti, aprite gli ingressi e venite a me. Tramite me ricevete la salvezza. La salvezza vi viene dall'alto. Puoi vederlo. Persino nel Sefirah di Shimon di Tiferet vi era la manifestazione della luce nei segreti della Torah, ma loro non l'accettarono. Guardati attorno. Non c'è un ebreo ortodosso che si occupa dei segreti della Torah. Naturalmente danno valore alla Torah, ma non la toccano. Perciò sono bloccati da sopra e da sotto. Sia dall'alto cielo, sia dal basso sono bloccati. Per questo si dice doppiamente bloccati. Perché ti dico questo? Così saprai molto chiaramente che non c'è altro modo per il popolo ebreo di ricevere la salvezza se non accettare Yeshua in piena coscienza e amore per la verità. Per favore, capisci che questo non significa che devono accettare il cristianesimo per niente. Il cristianesimo ha anche le sue mancanze, perché andare da difetto a difetto, la malattia, perché andare da difetto a difetto, da malattia a malattia? Qual è la malattia degli ebrei? Sono doppiamente prigionieri. è quella dei cristiani. Loro vedono solo Yeshua sulla croce come qualcuno che ha ripagato i loro debiti. Loro ricevono solamente lo splendore della luce di Nefesh dal cielo. Quando l'entrata principale è bloccata, anche tutte le altre si bloccano. Che lucchetti hanno? Il primo è sotto Keter, quello di Mosè, la Torah dischiusa. I cristiani accettano la Torah di Mosè, ma non la imparano. Per cui la via per proseguire ulteriormente è sconosciuta a loro. Loro hanno solamente lo splendore della luce Nefesh e un po' della Torah dischiusa, della luce Ruach. Questo è tutto. Invece la vera salvezza si ottiene tramite le cinque fasi. I cristiani parlano di salvezza, ma non è la vera salvezza solo un principio e non è abbastanza. Invece di andare oltre la ragione, parlano di croce e penitenza. Questo è l'opposto del messaggio positivo di Yeshua. Lui disse che si deve andare oltre la ragione, altrimenti non si può arrivare al regno dei cieli. Tramite la penitenza è impossibile arrivare al regno dei cieli. Quando si vede il Redentore come qualcuno che è morto sulla croce a causa dei nostri peccati, è impossibile arrivare alla vera salvezza. Non è abbastanza, miei cari fratelli e sorelle cristiani. Questo è solo il principio della salvezza. Naturalmente tutto è all'interno dell'Alto Keter nella fase di Yeshua. Lì è il principio e la fine della salvezza. Lui disse: Io sono Aleph e io sono Tav. O nella nostra lingua, io sono il primo e l'ultimo. Vale a dire, Yeshua si manifesterà nel Mashiach. Quindi vedi che tutto corrisponde, ma devi ricordare che Yeshua solo non dà la salvezza perché avresti solo un cli. Il più fine con la luce più bassa Nefesh. Ora forse puoi capire perché una suora può parlare in maniera così bella in televisione e puoi provare meraviglia nella sua religione. Puoi sentire la sua alleanza profonda con la sua religione e la sua resa. La sua religione è così diversa da quella di una donna ebrea. Perché possiamo sentirlo quando incontriamo una suora, per esempio? Perché lei è con essa tramite la sua fede con Yeshua. Per questo risplende e parla dell'amore di Yeshua. Ma è solo la radiazione di un cli di Yeshua. Quello che sta sotto è chiuso per lei. Perciò quando si è cristiani, tutti i kilim sotto keter sono chiusi. A loro manca l'ingresso ai kilim inferiori fino a Malchut. Per questo molti cristiani hanno una doppia vita. Dall'alto sono quasi come angeli, ma nel profondo, dentro di loro, hanno sensazioni diverse, di miseria e dubbio. Perché parlano così tanto di Mashiach? In un certo senso parlano solo di Yeshua, in lui vi è Keter e la sua seconda apparizione è Mashiach. Naturalmente vi è l'inclusione di Yeshua, ma solamente potenziale. Una persona deve fare tutto il lavoro da se stessa. Questo è l'unico modo per portare alla seconda venuta del Mashiach. Quello che loro dicono e intendono è: lui verrà. Ma l'apparizione del Redentore avverrà solamente quando la luce Yichidah entra in Mashiach, nel Kli di Malchut. La seconda apparizione del Mashiach è in Malchut. Quale Mashiach? Ovviamente Yeshua. Non c'è né un altro perché. Non c'è un secondo, terzo o quattro o quarto uomo chiamato Redentore. Moshe, Shimon, Yitzchok hanno tutti contribuito alla rivelazione del Mashiach. Per esempio, Mosè è una forza data al Clidat come un'aggiunta per supportare la seconda apparizione del Mashiach. Shimon contribuì pure. Il suo contributo fu dato a lui dall'alto, così che potesse contribuire alla seconda apparizione del Mashiach. Qual era l'aggiunta che Yeshua ricevette quando Mosè venne a esistere? La luce Ruach. Qual era l'aggiunta di Shimon? Grazie alla sua venuta, alla sua rivelazione della Torah segreta, Yeshua ricevette la luce Neshama. Con la prima apparizione di Yeshua, la luce Nefesh entrò nel Kli di Yeshua. Tramite la venuta di Mosè, la luce Ruach entrò nel Kli di Yeshua. Grazie alle venute di Shimon Bar Yochai, la luce Neshama entrò nel Kli di Yeshua in Keter. Con Yitzchak arrivò la quarta luce, così il contributo di Yitzchak fu la luce Chaya in Yeshua. La luce Chaya è la luce di vita. Infine verrà il Mashiach. Facciamo che sia nei nostri giorni. Che accadrà? La luce Yichidah verrà? Uno dei nostri studenti ha notato che le prime due lettere di Yeshua, le lettere Yud e Shin, significano esiste, Yesh. E nel nome Mashiach abbiamo pure queste lettere, ma in ordine inverso. In qua e quando osservi le ultime due lettere, vedi la parola Chai, Het Yud, vita.